Martedì 26 maggio avrà luogo presso il chiostro della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, via Eudossiana 18, la 19esima edizione di Job Meeting e Trovalavoro.it Roma. Consolidato prestigio, crescente partecipazione di aziende, enti di formazione ed affluenza di laureati, laureandi e giovani professionisti provenienti da tutta Italia rendono Job Meeting e Trovalavoro.it Roma uno dei momenti più importanti e qualificati a livello nazionale nell'incontro tra mondo dell'università e realtà aziendale. Vienici a trovare presso lo stand Radio Luis. L'accesso alla manifestazione è gratuito, l'orario è continuato dalle 9 alle 17.